Do il buongiorno a Pietro Traldi, grazie per la sua disponibilità. Grazie a te. Allora, siamo qui per parlare delle Notti delle Sementerie, questo festival di teatro un po' a cielo aperto, ce lo puoi raccontare? Certo, le Notti delle Sementerie è un festival di teatro contemporaneo giunto quest'anno alla 7ª edizione. È una situazione particolare perché appunto Sementerie Artistiche sorge in campagna, a Crevalcore, in mezzo ai campi, e quindi per l'occasione costruiamo un teatro di paglia che può ospitare a 200 spettatori, in cui appunto programmiamo gli spettacoli del festival. Quest'anno tutta la programmazione è caturita, diciamo, dal sogno di una notte di mezz'estate, che è anche lo spettacolo che apre il festival come produzione di Sementerie Artistiche. Abbiamo estrapolato alcuni temi dal sogno di Shakespeare, in base ai quali abbiamo costruito la programmazione con gli spettacoli ospiti. Sono 13 serate di spettacolo dall'8 luglio al 7 di agosto, 4 repliche del sogno di una notte di mezz'estate, e tra gli spettacoli ospiti abbiamo un Bes di Mario Perrotta, abbiamo Pur Parler di Anna Gaia Marchioro, Istanbul Beat con Denise Özdoğan, e una bella serie di spettacoli di teatro contemporaneo emergenti e invece di artisti anche più affermati. So che ci saranno anche ospiti internazionali, compagnie internazionali. Sì, infatti chiudiamo il 7 di agosto con El Loco y la Camisa, che è uno spettacolo del Banfield Teatro Ensemble di Buenos Aires. È uno spettacolo cult, diciamo, del teatro argentino. Infatti a Buenos Aires è in replica ininterrottamente dal 2009, una cosa che in Italia è inimmaginabile, e che siamo riusciti ad avere in programmazione al festival. Quindi sarà uno spettacolo di chiusura in lingua originale con i sovrattitoli. E come vi è venuta invece l'idea di creare questo teatro di paglia su cui poi mettere in scena appunto gli spettacoli? Dunque, Sementerie Artistiche, che è il nome della compagnia e dell'associazione che cura questo evento, sorge all'interno di un'azienda agricola a Crevalcore, che appunto dopo il terremoto del 2012 ha deciso di destinare alcuni spazi sottoutilizzati ad attività diverse da quelle agricole. Quindi, diciamo, il contesto ci aiuta ad aver immaginato questa particolare situazione, e poi è stato anche un pochino una necessità, insomma è scaturito all'inizio da una necessità, perché la sala, noi abbiamo anche una sala al chiuso, quando abbiamo fatto l'inaugurazione non era ancora agibile, diciamo, e quindi avevamo voglia e necessità comunque di inaugurare con l'accoglienza del pubblico, e ci siamo inventati questa cosa del teatro di paglia, che c'era, la paglia era a disposizione. Quindi poi verrà smontata, sì, alla fine. È una cosa molto bella perché che per noi anche fa un parallelo un po' con l'arte del teatro, che è un'arte effimera perché si può fruire solo nel momento della rappresentazione. E infatti la paglia con cui viene costruito il teatro è quella del campo su cui il teatro viene costruito. È stato appena mietuto il grano, quindi le balle sono state appena fatte, e dopo il festival la paglia viene venduta, il teatro si disperde, sì, diciamo, in attesa di venire ricostruito l'anno dopo. Vogliamo ricordare ancora i giorni e magari, non so, un sito, dei canali social per seguire gli eventi? Il festival comincia l'8 di luglio e va avanti fino al 7 di agosto. Sono 13 appuntamenti, mercoledì, venerdì e i sabati. Sul sito www.sementerieartistiche.it o sulla pagina Facebook o Instagram si possono vedere tutti i dettagli degli eventi. Grazie mille. Grazie a te.